Focus Economia di Sebastiano Barisoni. minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come promesso, visto che è uscito ieri il rapporto della Fondazione Agnelli sullo stato di salute della nostra scuola, ci occuperemo dei soldi, dei fondi tagliati alla scuola, di quello che può essere concepito come un risparmio, quindi una maggiore efficienza, e di quello che invece viene definito una minor risorsa per le classi italiane, per la scuola, soprattutto la scuola pubblica. Perché lo diciamo? Perché, visto che spesso ci chiedete di andare nel concreto e di uscire dagli schemi, beh, insomma, si sente sempre ripetere che per rendere più competitivo il paese bisogna investire in ricerca e anche in formazione, le nuove generazioni. Ci si riempie molto la bocca di questa retorica, poi in realtà vedremo che la situazione in Italia non si spende percentualmente al PIL più di altri paesi europei per l'istruzione, lo dico subito. E i tagli previsti dalla finanziaria per i prossimi tre anni sono importanti, sono 8 miliardi di euro in tre anni, cioè 2 miliardi e 600 milioni di euro all'anno, ma soprattutto si tratta di capire se questi tagli possono comunque essere assorbiti all'interno di una maggiore efficienza, oppure si va a toccare una situazione già critica, perché poi è inutile parlare di formazione se non ci sono i soldi. Ancora, per quello che riguarda i temi di oggi, parleremo anche del dato americano sul PIL, di un rapporto della Corte dei Conti sulle privatizzazioni che dice in sostanza non sono state esaltanti. Sto usando un eufemismo perché la Corte dei Conti ha detto una cosa ancora più dura, ha detto con le privatizzazioni, e immagino il riferimento fosse anche a privatizzazioni senza liberalizzazione, l'aumento della capacità di generare profitti di tutte le utilities privatizzate è in larga parte dovuto più che a recuperi di efficienza sul lato dei costi all'aumento delle tariffe. Questo vale per gas, elettricità e quant'altro, ma anche per le banche. Parlava di tutto la Corte dei Conti. Comunque, insomma, dice, e vale anche per le autostrade, insomma, dice che le privatizzazioni hanno portato a un aumento degli utili non perché le società privatizzate siano state più efficienti, ma perché hanno aumentato le tariffe. E tra l'altro, per l'Italia ha incassato a livello mondiale più di tutti, viene dopo il Giappone nelle privatizzazioni. Tra l'altro, questo è un giorno in cui si è saputo che sono 16 le offerte per la privatizzazione di Tirrenia, tra cui anche Mobiline, grandi navi veloci, e anche Simone Cimino, un imprenditore siciliano che forse alcuni di voi ricordano perché è stato nostro ospite, visto che ha fatto un'offerta anche per Termini Imerese e quindi le auto elettriche, l'accordo con l'Indiana Reva per produrre pannelli e auto elettriche negli stabilimenti di Termini Imerese. Allora, vedo già dei messaggi sulla scuola. La qualità dell'istruzione non è direttamente proporzionale ai soldi, ma alla capacità di insegnare. Siamo d'accordo. Certo che se poi i ragazzi devono lasciare i soldi per le fotocopie o i genitori vengono invitati a portare il televisore perché non ci sono i soldi nemmeno per la carta igienica in alcune scuole, forse è anche il caso di non sempre pensare che, insomma, i soldi non servono. Ecco. Comunque ci arriviamo subito. 349-238-6666. Parleremo nella seconda ora del programma con il vicepresidente di Confindustria, con la delega alle relazioni industriali Alberto Bombassei, sia della congiuntura. Ieri il dato, infatti, del Centro Studi Confindustria: non si uscirà da questa crisi prima del 2017, non torneremo ai livelli prima del 2017, non si vedranno i livelli del 2007, che vuol dire che questo scherzetto generato, diciamo innescato dalla finanza speculativa, creativa, di carta americana, ma non solo, ci costerà 10 anni di livelli di produzione inferiori al 2007. E ringraziamo anche, visti i bonus che si stanno attribuendo i vari manager bancari a livello mondiale, ieri l'ultimo caso, quello di Royal Bank of Scotland. Ancora i mercati come vanno? Recupero oggi più 1% Milano, più 1,5 Parigi, più 1,1 Francoforte, più 1,1 Londra, più 0,20 l'America. Non è che il dato sul PIL americano che adesso commenteremo abbia riempito di entusiasmo Wall Street. Tra i titoli segnaliamo Geox più 9,2% oggi dati, Parmalat più 3,6%, Mediolanum più 3,1%, Banca Popolare più 2,7%, Finmeccanica più 2,1%, Enel più 2%. Chi perde? Pirelli meno 1,6% e Telecom meno 1%. Allora, con le notizie in breve, iniziamo proprio da Telecom Italia. Eh sì, perché 5 minuti fa è arrivata quella che potrebbe essere una pietra forse definitiva sull'ipotesi di fusione di acquisizione da parte di Telefonica di Telecom Italia. Telefonica, il colosso spagnolo, è già l'azionista di maggioranza relativo dentro Telecom Italia, però oggi il presidente Cesar Alierta ha detto la partnership industriale è l'alternativa migliore per gli azionisti, cioè in sostanza ha detto l'attuale accordo è la scelta migliore e stiamo continuando a lavorare con Telecom attraverso questa partnership industriale e questa partnership industriale è la migliore alternativa per i nostri azionisti. Quindi Telefonica smentisce, non sembra interessata a cambiare gli attuali rapporti di forza, la sua partecipazione nel gruppo Telecom Italia. Ancora, vediamo le notizie di carattere internazionale. Il petrolio come viaggia a $78 il barile. Il diesel però in Italia ha toccato i nuovi massimi da 15 mesi. E beh, non avevamo dubbi. Il diesel è schizzato a 1,224 euro. Non toccava questo livello dal novembre del 2008. Esso e Shell, le prime due compagnie a rialzare il prezzo del diesel. Brutto il 2009 per il gruppo Volkswagen, ha chiuso il 2009 infatti con un utile netto di 900 milioni di euro, l'80% in meno rispetto al 2008. Il fatturato è calato del 7% a 105 miliardi di euro. Il dividendo per gli azionisti Volkswagen sarà di 1,6 euro per azione. I Lloyds, la prima banca britannica nell'erogazione di mutui, Lloyds Banking Group, in cui lo Stato detiene, perché li ha dovuto salvare anche i Lloyds, non solo la Royal Bank of Scotland, detiene una quota del 41%, ha chiuso il 2009 con una perdita superiore alle attese, circa 7 miliardi di euro, e ha dovuto svalutare, ossia rettificare, correggere investimenti fatti perché erano stati fatti appunto nei prodotti derivati o comunque nei prodotti carta su carta per 24 miliardi di sterline, che insomma a spanne siamo intorno ai 27 miliardi di euro. Allora, diciamo del PIL americano, nel quarto trimestre rivisto al rialzo del 5,9%, un dato superiore alle previsioni degli analisti. La crescita dell'ultimo trimestre del 2009 negli Stati Uniti è stata la più forte da oltre 6 anni a questa parte. Insomma, questo è interessante perché vuol dire che l'America, quanto a PIL, si è mossa in maniera più rapida delle attese nell'ultima parte dell'anno. Cosa è andato bene? Gli investimenti aziendali e anche la ricostruzione delle scorte. Sappiamo che nel 2008 molti gruppi industriali, anche in America, hanno prima fatto esaurire le scorte di magazzino e poi le hanno ricostituite. La nota dolente invece è ancora rappresentata dai consumi, anche in America i consumi non ne vogliono sapere di ripartire, meno 1,7% nell'ultimo trimestre dell'anno che si è chiuso. Però, cioè, questi sono i dati da ottobre, novembre, dicembre. Il dato invece di gennaio sulla vendita di case esistenti in America è un dato abbastanza preoccupante, perché c'è un nuovo calo del 7,2% nelle vendite di case in America, contro tutte le attese degli analisti che si aspettavano almeno un più 1%. E il meno 7% arriva dopo il meno 16% nelle vendite di case in America segnato a dicembre, il che vuol dire che insomma, sul fronte consumi non ci siamo ancora negli Stati Uniti. Allora, della privatizzazione abbiamo detto, ultimi due dati e poi partiamo con la scuola, poi daremo anche alcuni aggiornamenti sul trimestrale di alcune trimestrali oggi diffuse, e mi riferisco a Piaggio e ad altre. Per quello che riguarda la casa, allora, l'Istat oggi ha calcolato che l'Italia è un paese in cui è il paese dei proprietari di casa. Secondo l'ultima rilevazione, circa 7 famiglie su 10, quindi qua il 68% del totale, 17 milioni di nuclei familiari, sono proprietari della casa in cui vivono, 2 su 10 pagano l'affitto. E poi addirittura 3 milioni vivono in una casa in usufrutto o in uso gratuito, i più fortunati di tutti. Quelli che hanno il mutuo sono il 13,5% del totale, il 16% nel centro-nord, l'8% nel mezzogiorno. Le spese per la casa, una famiglia spende in media 347 euro, di, euro mensili, incluso l'interesse sul mutuo, in media al mese. Una nuova inchiesta della Guardia di Finanza sui paradisi fiscali, 2000 contribuenti nel mirino dell'Agenzia delle Entrate della Guardia di Finanza, anche perché questi 2000 contribuenti italiani hanno trasferito tra 2007 e 2008 all'estero oltre 2 miliardi di euro. Vabbè, sul riciclaggio sono in corso gli interrogatori di garanzia in Procura Roma per Stefano Mazzitelli, Carlo Focarelli. La vicenda è quella di Fastweb e Telecom Italian Sparkle. Scaglia è in carcere, Silvio Scaglia l'avete già ascoltato dai nostri GR, farà la prima notte in carcere dopo essere arrivato ieri sera, ha già fatto quella di ieri sera, a dire il vero, farà la seconda notte, è arrivato ieri sera a Ciampino, ha detto Scaglia, chiarirò tutto e poi tornerò al lavoro. Allora, la scuola e il rapporto presentato dalla Fondazione Agnelli, come ogni anno, sulla scuola in Italia. Sì, vedo già molti messaggi, alcuni dicono ma insomma i soldi non fanno niente, non è questo il motivo per cui la scuola va male, altri notano come la Regione Lombardia spende 950 euro per contributi ai bambini alle private e 4 euro nelle pubbliche. Questo è un altro tema delicatissimo e chiarisco subito, così fughiamo ogni dubbio, nessuno qui ha una preferenza per le private o per le pubbliche. È chiaro però che quello che è privato di solito nella vita si paga, il taxi o qualunque altro servizio, quello che è pubblico dovrebbe ricevere gli incentivi. Devo dire anche qui, senza grossa polemica, che ci ha lasciato un po' perplesso vedere come nei tagli previsti nella finanziaria nei prossimi 3 anni 8 miliardi di euro in meno per la scuola pubblica, per la scuola fino al 2012, sono 2 miliardi e 600 milioni in meno all'anno, beh però si è trovato spazio per 150 milioni da dare alle scuole private. Una cosa, mi limito a manifestare una perplessità e comunque i tagli ci sono stati, stiamo parlando di 2 miliardi e 600 milioni all'anno su 60 miliardi totali. Con una stima di una riduzione del numero dei docenti nei prossimi 3 anni di quasi 90.000 unità, 87.500 docenti in meno, sono circa 30.000 all'anno, 44.000 bidelli e segretari in meno, e vabbè. Quanto spendiamo per la scuola? 60 miliardi di euro l'anno. Su di questo il 60% se ne va negli stipendi degli insegnanti. La spesa per le scuole private è lo 0,3% del PIL, all'estero in media lo 0,1%. Quanto si spende per ogni studente? 6.600 euro in media, di cui 9.900 in Trentino, 5.800 in Puglia. 6.600 euro, e qui iniziamo a sfatare alcuni miti, lo dico anche a chi scrive perché insomma, ragionare per luoghi comuni è sempre inutile a mio avviso. L'Italia spende meno della media europea per l'istruzione. Poi, che spenda male, bene, questo possiamo ragionare, ma non iniziamo con queste palle per cui noi spendiamo troppo per l'istruzione. Abbiamo dati di 60, spendiamo il 3,4% del PIL contro il 3,8% della media dei paesi OCSE. E anche la media OCSE per singolo studente è di 7.280 euro, da noi è 6.600 euro. Dopodiché questi soldi vanno anche ben spesi, ma è inutile dire che spendiamo troppo, lo dico a chi sta già polemizzando al 349-238-6666 e saluto il dottor Stefano Molina, che è uno degli autori del rapporto della Fondazione Giovanni Agnelli, in particolare lei si è occupato della parte economica, quindi la spesa e il federalismo. Buonasera Molina. Buonasera. Allora, ci siamo fin qua con questi dati? C'è solo un'imprecisione, eccoci, se mi permette. È vero che l'Italia spende leggermente di meno della media OCSE nel complesso per la propria scuola, ma se facciamo il calcolo per studente, visto che noi di ragazzi ne abbiamo pochi a seguito del calo demografico degli anni 90, noi spendiamo per studente un po' di più della media OCSE. Quindi dato i 6.600 euro, adesso chiederò conferma, contro i 7.280 che probabilmente noi... è invertito. Cambia poi poco sostanzialmente, però noi per la scuola spendiamo leggermente di meno, ma se ci mettiamo dal punto di vista del singolo studente, dato che abbiamo pochi studenti rispetto alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra, alla fine la spesa pro capite, per quello che può contare, è leggermente superiore. Questi sono dati, come dire, incontrovertibili. Allora, andiamo sui dati che voi evidenziate nel rapporto. Di vari, poi arriveremo adesso, socioculturali e di vari territoriali. Allora, la scuola, se ben ricordo, dovrebbe servire da livella virtuosa, cioè chi ha la fortuna di nascere, o meglio, chi ha la sfortuna di nascere in una famiglia meno abbiente, anche meno colta, dovrebbe recuperare, questa è la funzione proprio di istruzione, tramite la scuola, se no non, l'ascensore sociale resta bloccato. Che, e anche chi ha la sfortuna di nascere in aree territoriali più povere o più, diciamo, disagiate, dovrebbe attraverso la scuola trovare una forma di ascensore, cioè di recuperare parzialmente almeno questa differenza. Che cosa avete visto e fotografato voi? Ma abbiamo visto che ci sono delle vecchie disuguaglianze che persistono e delle nuove che si affacciano. Il quadro quindi è fatto di tanti divari, di tante fratture che vanno tutte monitorate. Quelle che non avremmo voluto vedere, che si vedevano già negli anni 50-60, sono proprio quelle legate allo status socio-economico della famiglia. Cioè, sostanzialmente, non faccio degli esempi, è chiarissimo, chi viene da una famiglia disagiata fa male a scuola e chi viene da una famiglia più colta, più benestante, eccetera, va meglio. E questo si rafforza poi con la dimensione territoriale. I giornali hanno notato uno dei tanti dati, che è quello del ritardo di un anno e mezzo circa a parità di età tra un ragazzino del nord e un ragazzino del sud. Un anno e mezzo circa? Misurati a 15 anni, la preparazione del ragazzino del nord è di un anno e mezzo avanti rispetto al ragazzino medio del sud. Cioè, come è come se il ragazzino medio del sud ne avesse di anni 13 e mezzo, dal punto di vista scolastico. Sì, cose di questo tipo, il problema è che poi non recupererà mai, perché certo. 13 e mezzo uno sa che poi comunque fino a 18 anni cresce, invece poi a un certo punto la scuola finisce e questo ritardo non si recupera più, anzi i processi di apprendimento sono cumulativi, per cui quanto più sei in ritardo all'inizio, tanto più difficoltà hai man mano che vai avanti certo. Poi all'università. Perché aumenta, è un po' come se l'esempio di una macchina che corre ai 60 all'ora, l'altra corre agli 80, all'inizio puoi avere 10 metri di differenza, sì, più oppure passa... come quei corridori piuttosto, cioè quello che arranca con mezzo giro di ritardo rispetto agli altri, poi finisce la gara e non si sa nemmeno più se è arrivato o non è arrivato, sì. Non interessa più. E questo è un gran peccato per i singoli e per la collettività italiana, perché ci stiamo giocando parte del futuro. Pensi che ci sono certe regioni, come la Sicilia, dove il 40% dei ragazzi che ha partecipato a queste rilevazioni internazionali non arriva a quella che viene considerata internazionalmente la soglia minima di comprensione del quesito che viene loro posto. E in queste condizioni non si hanno gli strumenti per vivere, e qui può arrivarci la retorica, no? La società della conoscenza, cioè, sono persone che rischiano di girovagare per la società e per l'economia senza molto costrutto, e questo è un dramma a livello individuale e a livello collettivo. E queste sono vecchie disuguaglianze che non si rimarginano, fratture che non si rimarginano. A queste si sommano delle nuove, ad esempio cominciano a emergere i dati sulle performance scolastiche dei figli degli immigrati, che sono concentrati nelle città del centro-nord e che non hanno risultati comparabili a quelli degli italiani. Questo è un nuovo problema da affrontare. E adesso ci arriviamo. Un'unica precisazione, no, siccome noi con i numeri ci lavoriamo e creiamo anche credibilità, io devo dire, dottor Molina, che abbiamo riverificato, però il vostro rapporto parlava di 6.600 euro di spesa mensile, pubblicato anche da Sole 24 Ore al Corriere della Sera. Per cui adesso chiudo la parentesi, però. No, glielo dico, ce l'ho davanti. Sì, sì, allora forse si sono sbagliati anche i giornali. No, perché sono dettagli, perché stiamo parlando di centinaia di euro, però. No, ma glielo posso dire, dato che l'ho scritto io, una parte del sì. l'Italia si colloca nettamente sopra la media dei paesi OCSE, $7,716 per uno studente degli elementari contro una media OCSE di 6.436. Allora sono invertiti. E 8.495 per studente secondario contro una media di 8.006. Questo però a fronte, come dicevo, di una spesa complessiva che è leggermente inferiore. Inferiore, però noi abbiamo meno studenti, diciamo. Sì, quindi... noi abbiamo molti meno. No, era solo perché i dati li abbiamo presi e volevamo essere sicuri su questo. Comunque, pagina 107. No, adesso non ho tutto il rapporto. Abbia pietà, andrò avanti per un'altra ora. Guardi, ma... la cosa, sa qual è la cosa importante? Sì. Che noi abbiamo imparato? Io ho passato 6 mesi della mia vita a fare le pulci ai conti di quella che forse è la più grande impresa italiana, perché non dimentichiamoci che la scuola italiana ha 1.150.000 dipendenti, cioè rendiamoci conto, voi siete abituati a ragionare di imprese, questa è una stragrandissima impresa, a livello mondiale ci sono poche altre imprese di queste dimensioni. Ecco, sì, adesso ci arriviamo. Una precisazione la devo dare agli ascoltatori al 349-238-6666. Abbiamo solo fatto notare, guardate, non ho nessuna intenzione di condurre questo approfondimento tra meglio privato o pubblico, non è questo il punto. Abbiamo solo fatto notare che nella finanziaria in cui venivano levati 2 miliardi e 600 milioni di euro all'anno per 3 anni, cioè un totale di quasi 9 miliardi, nei tagli alla distruzione, erano stati però trovati 150 milioni di euro per le private finanziaria questa 2010. Tutto qua. Allora uno dice, vabbè, insomma, la cosa ti lascia perplesso. Nessuno ha mai detto che le private non debbano ricevere, come altri soggetti pure privati, dei contributi statali, fermo restando che il principio è che ciò che è statale si dovrebbe pagare di meno di ciò che è privato. Voglio dire, il taxi e l'autobus, ok? Poi ci possono essere varie agevolazioni. Andiamo avanti con questo, perché lei ci ha fatto capire che il divario socioculturale resta molto forte, cioè a parità di famiglia e anche di area geografica, che è ancora peggio, se uno nasce al sud a 15 anni ha un anno e mezzo di ritardo come formazione scolastica a 15 anni rispetto a chi è nato al centro-nord, e anche quelli che nascono nelle famiglie più abbienti e colte mandano i figli al liceo, e invece dall'altra parte l'ascensore sociale è bloccato, e questo l'abbiamo già scoperto, devo dire in generale. Dopo le informazioni meteo pubblicità, vorrei capire il passaggio sul federalismo fiscale, perché nessuno sta dicendo che non si possa risparmiare sulla scuola, ma vorrei capire se qua stiamo risparmiando veramente oppure stiamo solo tagliando, e da lì poi tutta l'anedottica dei bambini che devono lasciare i soldi per le fotocopie, dei genitori che portano il televisore e il computer da casa, la carta igienica, gli ascoltatori che scrivono che ogni volta che l'insegnante è malata c'è un'ora buca perché non ci sono i soldi per l'insegnante, per la supplente, insomma tutto questo, addirittura le casse vuote, le scuole delle Marche al tracollo finanziario, insomma vari casi che abbiamo letto. 349-238-6666 per i vostri sms, meteo, pubblicità e poi l'ultima parte. ...17:35, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, ai talebani del mercato dico, attenzione, stiamo arrivando alla borsa come ogni giorno, come ogni mese, settimana, che Dio manda in terra, facciamo la borsa quando la borsa è aperta, più 1% la chiusura di Milano, più 1,87 Parigi, più 1,20 Francoforte, più 1,5 Londra, più 0,2 l'America. Mi sembra che, e lo dico a chi contesta il tema, insomma, dire che non è un tema che riguarda l'economia, la competitività e l'efficienza di un paese, l'investimento in istruzione, vuol dire che abbiamo scherzato fino adesso. Allora non parliamo più di investimenti in istruzione, in ricerca e in sviluppo. Chissà perché dall'India escono ogni anno 15.000 ingegneri delle varie discipline, insomma. Saranno stupidi gli indiani e i cinesi. Che vi devo dire? Andiamo avanti invece con i temi. 349-238-6666 per gli sms. Allora, a chi ha curato parte del rapporto della Fondazione Agnelli come Stefano Molina chiedo. Voi avete dimostrato che col federalismo fiscale, federalismo scolastico, il risparmio sarebbe più o meno quello che già si ha con la riforma della Gelmini. Esatto. Esatto, quindi non c'è molta differenza. Il problema a questo punto mi sembra un altro. Questo è risparmio vero o venire meno di efficienza? Cioè si vanno a risparmiare sulle sacche di spreco, oppure come noi risulta da molte parti ci sono i ragazzi che a Genova nell'istituto tecnico Attilio Odero di Sestri Ponente hanno fatto la colletta di 1 euro a testa, altre scuole... Ho visto visto, come ho dica visto lei. Far collette di 20 centesimi quando andavamo a somministrare dei questionari nelle scuole, cioè i ragazzini che prima che finiva a compilare il questionario usciva e lasciava sulla scrivania dove casualmente ero seduto io a controllare il test, lasciava 20 centesimi, pensavo fosse un gioco, una presa in giro, poi ho chiesto al terzo, ma cosa state facendo? Dice, ma domani abbiamo compito in classe e quindi rimborsiamo le fotocopie al prof. Questa è la situazione in un istituto professionale dello Stato. Sì, perché qua scrivono ascoltatori e dicono, mio figlio porta pure i soldi per il gesso e la carta igienica. No, certo, questa è vera. Però questo diciamo è molto importante, però mi lasci dire una premessa, credo che sia fondamentale per capire la situazione della scuola oggi. Allora, intanto è vero, come diceva lei, che di per sé il taglio secco non porta efficienza. Il taglio non deve essere fatto alla cieca, deve essere mirato, sennò l'efficienza può essere inefficienza. Come in qualunque impresa, va detto. Come in qualsiasi impresa. Seconda cosa, in questo momento la scuola italiana è fatta di insegnanti e gli insegnanti sono caratterizzati nella scuola italiana da stipendio unico e carriera piatta. Questo da un sacco di tempo, per motivi che non ripercorriamo qui. Quello che posso dare come testimonianza di 15.000 questionari somministrati a insegnanti neoassunti quest'anno, cioè nel 2009, meno del 30% di questi 15.000 intervistati ci ha detto va bene così, stipendio unico e carriera piatta. Oltre il 70% ha cominciato a dirci non va assolutamente bene, perché io che mi impegno prendo alla fine del mese la stessa cosa di quello che si è messo in mutuo, che non ha fatto niente, che scherza con i ragazzi. Che fannullone di tutti. Fannullone. Capita in tutti gli ambienti di lavoro, sappiamo che è così. Allora, chi guarda la scuola sa che le chance per rilanciare, per un riscatto della scuola italiana, che negli ultimi anni è stata calpestata innanzitutto dalle indagini internazionali, ma anche dai commentatori italiani, che insomma ci siamo avvitati, no? È una critica alla scuola. Ecco, il riscatto può passare da un ripensamento della scuola che considera nuove risorse da mettere dentro la scuola. Quindi una delle condizioni per cui la scuola possa essere rilanciata è, a nostro avviso, è che i risparmi che vengono effettuati sul fattore produttivo, uso apposta con la vostra radio questi termini, che probabilmente è sovrabbondante, cioè gli insegnanti, abbiamo un rapporto tra allievi e docenti che è squilibrato rispetto agli altri paesi, l'unico modo per troppi docenti? È che il risparmio venga reinvestito in altri fattori che attualmente, compresa la formazione e la motivazione degli insegnanti stessi, per il rilancio della scuola, perché se no non se ne esce. Sì, e anche un po' di carta igienica e di gessetti. Ma guardi, insomma, carta igienica, no, ho capito, però ma io sono d'accordo con lei, però non si può motivare un insegnante. Allora, prima di tutto, noi l'abbiamo detto più volte anche con il ministro Brunetta ospite, la campagna del ministro Brunetta per dare il merito e punire i fannulloni è una campagna che va a premiare, diciamo, o comunque a ridare dignità al lavoro del pubblico impiego, e di questo ne siamo assolutamente convinti. Ecco perché poi lei ci conferma che il 70% degli insegnanti sono d'accordo nel dire date più soldi a chi si applica di più e punite in qualche modo retributivo chi si applica di meno, perché vuol dire ridare dignità a un lavoro che è un lavoro più che dignitoso. Punto uno. Punto due, sono d'accordo con lei, reinvestiamo i soldi risparmiati, però guardi che da questo punto di vista il taglio in finanziaria è un taglio e basta, cioè non è una redistribuzione di spesa, si dice dobbiamo risparmiare per i conti dello Stato 2 miliardi e 6, in questo caso li andiamo a prendere dalla scuola. Ma guardi, c'è già nel documento programmatico e nelle norme collegate l'impegno di reinvestire il 30% in una generica funzione premiale, tutta da definire, no? Quello che dice la Fondazione Agnelli, non solo il 30%, perché tagliare la scuola vuol dire tagliare il futuro. Quindi quello che si riesce a risparmiare sulle parti dove oggettivamente dal confronto internazionale risulta che, prima parlavamo anche di declino demografico, noi abbiamo continuato a crescere, ad aumentare il numero di docenti anche nei decenni in cui diminuiva drasticamente il numero di nati in Italia e il numero di scolari in Italia. Quindi dobbiamo adeguarci. Tutto quello che però si può risparmiare, ma qualsiasi impresa farebbe così, qualsiasi seria impresa farebbe così, va reinvestito. No, questo l'ho capito. Le faccio un'ultima domanda che forse è quella più politicamente delicata. Allora, in un'ottica di federalismo fiscale, per esempio la regione Lombardia, per vari motivi che possono essere anche di carattere politico, è inutile nascondersi dietro un dito, spende 50 milioni di euro per, in bonus circa per le private e non dà o dà pochissimo alle pubbliche. Queste, siccome si va verso una logica di federalismo, allora la regione che è più vicina, poniamo, al mondo cattolico, in caso non è un mistero, insomma, ACL vuole dare dei soldi alle private, oppure vuole dare dei soldi alle private in generale, perché le private non sono solo cattoliche, sono di qualunque estrazione, l'altra regione vuole dare statali, cioè si rischia che poi di regione in regione Allora, due cose volevo dire. La prima è che 50 milioni non sono una cifra enorme rispetto alle cifre che abbiamo visto fino adesso. La seconda è che nella logica del federalismo la regione che spende i soldi dei propri contribuenti in una direzione ne risponde di fronte ai propri contribuenti ed elettori. Quindi può andare bene fino a un certo punto, poi saranno gli elettori stessi che, controllando l'operato di quella regione, diranno se va bene o se sì, va male. Sì, ma nel frattempo però uno continua a portarsi la carta igienica da casa. Nel frattempo, il frattempo va avanti da 40-50 anni. Sono d'accordo, non ce l'ho con la logica, la logica del federalismo incorpora dentro di sé anche la possibilità di controllare più da vicino coloro che prendono le decisioni. No, sai perché glielo dico? Perché così facciamo arrabbiare il mio collega Giuseppe Cruciani, tanto lo sa già. Siccome sono 6 miliardi e 4 la spesa prevista per il ponte sullo stretto, io non ce l'ho sempre col ponte, però tra il ponte sullo stretto e la carta igienica nelle scuole non avrei molti dubbi, no? No, certo. Ecco, su questo, perché anche poi perché ne abbiamo fino al quarto millennio di carta igienica. Sì, vabbè, scuole, adesso vediamo anche che ci sia un eccesso di uso, però voglio dire, ci sono delle priorità che forse andrebbero ridefinite. Io vedo quello che fanno gli altri. No, però, guardi, parliamo seriamente, perché giornalisticamente sono serissimo, sono serissimo sul ponte però, e la scuola. Quello che voglio dire è che abbiamo cercato di dire col rapporto che il federalismo può essere una grande occasione per conseguire degli obiettivi che non sono quelli di far avere alle regioni più soldi, meno soldi, cioè non obiettivi di risorse in più o in meno. E nemmeno obiettivi di risparmio, perché già tanto quei provvedimenti da Gelmini si fa tutto quello che si può fare, di più non è difficilmente pensabile. Il federalismo deve essere l'occasione per concentrare gli sforzi delle regioni e dello Stato, concentrare sforzi unificati verso degli obiettivi di risultati della scuola, che sono la lotta alla dispersione e il miglioramento degli apprendimenti. Queste sono le cose importanti. No, ma questo siamo tutti d'accordo, e come arrivarci? No, ma è tutti d'accordo, ma intanto le discussioni si fanno su se compensare il comune altimetricamente svantaggiato, eccetera, cioè sempre sugli input, oppure come tutelare gli insegnanti, che è una cosa ovviamente doverosa. Non ho ancora citato il tema degli insegnanti da tutelare, perché se ci sono degli esuberi, mi dispiace dirlo, e in questo caso mi sembra di capire che ci sono, perché calato il tasso di il numero di studenti è aumentato, è rimasto invariato il numero di insegnanti, non devi essere un genio nelle proporzioni per capirlo. E infatti l'ultima domanda che ho per lei è questa: la riduzione del personale, che appunto dalle cifre che ha diffuso anche il Ministero sarà pari a 87.500 docenti in meno nei prossimi 3 anni, circa 27.000 all'anno e 44.000 tra bidelli e segretari. Questa cosa qui comporterà, come sempre avviene in un'azienda, tu puoi avere degli esuberi per avere più efficienza e produttività, oppure hai degli esuberi perché comunque non stai in piedi. Comporterà maggiore efficienza, sì o no? Di per sé no. Per sé è un taglio. Perché no? Bisogna vedere come... perché comporta dei problemi organizzativi interni alla scuola che andranno gestiti, e sono insomma una novità che si aggiunge a un sovraccarico funzionale che grava sulle scuole, questo indubbiamente va detto. Peraltro non è nemmeno noi abbiamo scritto che queste previsioni di 80-90 mila tagli, però il primo tentativo di lasciare a casa delle persone si è esaurito, per fortuna per loro, e così con un certo stupore da parte degli osservatori, in alcune regioni con degli accordi per la riassunzione da parte delle regioni dei precari che perdevano il posto. Quindi dal punto di vista della finanza pubblica non è detto che sia un risparmio netto. Si tratta però di una prima introduzione di federalismo, cioè per la prima volta entrano nelle scuole delle persone che dipendono dalle regioni. Questo riguarda. Adesso mi deve dare una risposta sì o no, perché sto sforando ogni tempo previsto. Ma se voi avete fotografato un'Italia spaccata in due, in cui uno studente che studia al sud... Spaccata in 20, meglio ancora. Che uno studente che studia al sud a 15 anni ha un anno e mezzo di ritardo rispetto a uno studente che studia al centro-nord. Il federalismo andrà a colmare o ampliare questo divario? Mi dica solo, colmare o ampliare? Poi ci salutiamo. Dovrà cercare di colmare questo divario, è quello che proviamo a dire. È il dovrà su cui tremo. Comunque, io la ringrazio perché, oltre che preparatissimo, è anche molto chiaro. Grazie a uno dei, curatori della del rapporto, come ogni anno, della Fondazione Giovanni Agnelli sulla scuola, il dottor Stefano Molina, il traffico e poi la borsa, così facciamo contenti tutte le vestali dei mercati. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, corriamo un po' perché abbiamo tanti temi, purtroppo o per fortuna, insomma il tema della scuola a mio avviso è il tema su cui ci giochiamo, poi tutte le reti di rapporti, l'export, ne parleremo più avanti con Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria, dell'export, dello sforzo, ma insomma se poi tu non hai mano d'opera qualificata e studenti formati non vai lontano, anche perché, ripeto, la Cina e l'India se la stanno giocando su questo la sfida, non solo sulle ore e ore passate a lavorare. Comunque, la borsa più 1%, non vedo degli spunti tremendi, Pirelli ha perso l'1,6, Telecom, l'abbiamo detto in apertura, che è il numero 1 di Telefonica, Alierta ha smentito, ha detto la situazione va bene così com'è, quindi nessuna ipotesi di aumentare la quota in Telecom e di arrivare a un'acquisizione, il titolo ha perso l'1%, Autogrill meno 0,70%, bene invece sono mossi Geox più 9,4%, Mediolanum più 3,6, Parmalat più 3,3, Banco Popolare più 2,86, Enel più 2,1, Finmeccanica anch'essa più 2,1, Exor più 1,80 come A2A, l'1,6 Mediaset e anche Ansaldo STS e anche Generali e ST Microelectronics, 1,5% rialzo i Bulgari in pregiro e anche Unicredito, ma anche Mondadori e Atlantia, Tenaris più 1,2 come la Popolare di Milano, Italcementi, Prismian più 1% come Eni, euro a quota 1,36,6, quindi il rafforzamento, come sempre Radio Cori, Sole 24 Ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Guido, rapidi ma non invisibili, vorrei di Telecom, abbiamo già detto, Fastweb ha un'altra brutta giornata anche oggi, ha un po' ripreso nel finale, tra i titoli migliori e peggiori Housebuilding più 11% e Geox appunto i migliori e i peggiori Esprinet più meno 8, Saras meno 6, Digital Brothers meno 4,70. La trimestrale di Geox. Sì, la trimestrale di Geox oggi ha fatto fare un balzo al titolo che ha guadagnato il 9,43% in borsa. I risultati diciamo sono stati in linea con le attese, i ricavi nel 2009 sono scesi del 3%, 865 milioni e anche l'utile è sceso da 124 a 84,2 milioni, però sostanzialmente il gruppo ha confermato una cedola vicina a quella dell'anno scorso, 0,2 euro rispetto agli 0,24 del 2008 e gli analisti sembrano aver apprezzato in particolare la buona generazione di cassa, oltre al fatto che proprio questi conti hanno portato sul mercato ad alcune ricoperture sul titolo. Ok, quello per questo, per quello che riguarda Geox, volete la trimestrale di Piaggio e avete ragione, è uscita poco fa, salgono l'utile e il dividendo, nel 2009 ricavi meno 5%, però insomma tiene, perché insomma avere l'utile e dividendo che salgono nel 2009 non è cosa da poco, utile netto a 47 milioni di euro per il gruppo Piaggio in crescita del 9% e ricavi in calo del 5% a 1 miliardo e 480 milioni. Il dividendo sarà di 7 centesimi di euro per azione, addirittura in aumento rispetto ai 6 centesimi del 2008. Andiamo avanti con i titoli. Che è successo a Saras, che, di cui parliamo poco, insomma la famiglia Moratti, meno 6,4%. Qui invece i conti hanno deluso molto, i conti sono stati diffusi questa mattina, il gruppo ha chiuso il 2009 con una perdita di 54,5 milioni rispetto a un utile di 327,2 milioni lo scorso anno, in più non distribuirà dividendo proprio a causa di questa perdita, i ricavi sono scesi del 40% a 5,3 miliardi e il gruppo ha annunciato che proprio per questa ragione rivede il piano di investimenti spostando tutto in avanti di circa 12-18 mesi. Sono stati quindi risultati e indicazioni anche sul 2010 che non sono state apprezzate dai mercati, che quindi hanno punito il titolo che ha ceduto il 6,4%. Ancora per quello che riguarda la Pirelli, qui insomma Telecom soffre, ma Pirelli perché soffre, visto che non c'è più nessun legame con Telecom Italia da quando Tronchetti Provera è uscito, meno 1,6% Pirelli. Sì, diciamo che è meno 10% nell'ultima settimana? Sì, nelle ultime prime 5 sedute ha ceduto quasi il 10%. È vero, non ci sono più legami, è vero che anche che diciamo le contestazioni dell'inchiesta sul riciclaggio si riferiscono agli anni in cui Tronchetti Provera in realtà era socio di riferimento di Telecom. È anche vero, come sottolineano gli operatori, che il titolo sta pagando un pochettino alcune difficoltà del settore industriale a livello più generale, per cui insomma un insieme di fattori che hanno portato il titolo anche oggi a perdere circa l'1,6%. Un'ultima domanda invece sulla borsa americana, che adesso è invariata, mentre le borse europee bene sono andate, come ricordavamo, con Parigi più 1,20%. Nessuna reazione positiva quindi sui dati americani. Ricordo, l'abbiamo detto in apertura, il PIL americano negli ultimi 3 mesi dell'anno è andato meglio di quanto precedentemente stimato. Sì, c'è stato questo dato che in qualche modo era in linea con le attese e inoltre riflette anche in parte una dinamica per cui sono aumentate le scorte ma non i consumi. E poi c'è il fattore AIG che in qualche modo sta pesando sugli Stati Uniti che non in Europa. E hai ragione, perché poi nelle notizie in breve in apertura non abbiamo citato il colosso dei mutui americano salvato dai soldi dei contribuenti americani, perché ha ridotto le perdite, però comunque ha sempre perso 8 miliardi e 870 milioni di dollari, no? Anche intendere che potrebbe esserci bisogno di un nuovo aiuto federale. Figurati. Certo, ricordo che il passivo che fu da record un anno prima, cioè nell'ultimo trimestre 2008, AIG perse 61 miliardi di dollari di passivo in un trimestre. Una cosa incredibile. Grazie a Guido Maurino, Radio Colli Sole 24 Ore. Buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa del gruppo Sole 24 Ore. Allora, siamo con molti temi oggi, quindi non riusciremo a affrontare in maniera esaustiva e completa il tema delle privatizzazioni, però ve lo lancio perché poi lunedì ne parleremo assieme all'altro tema che sarà il giudizio dell'agenzia di rating sullo stato dei debiti di Italia, Portogallo, Grecia e Spagna. Oggi la Corte dei Conti ha scoperto che dopo le privatizzazioni noi siamo secondi solo al Giappone, lo Stato ha incassato 119 miliardi dal 1992 privatizzando. Dice la Corte dei Conti che l'aumento degli utili delle società privatizzate è dovuto in larga parte, più che a una maggiore efficienza dovuta appunto alla privatizzazione, a un aumento delle tariffe. Chiedo all'economista Luigi Prosperetti, buonasera professore. Buonasera. Che poi sarà il nostro ospite lunedì, ma un commento proprio flash, le risulta, le torna o no? Bisogna vedere in modo differenziato, in alcuni casi questo è vero, mi sembra che la Corte dei Conti faccia esplicitamente il caso di Autostrade, in altri casi questo non è vero, dipende dal livello di concorrenza. E quindi se io dico Autostrade e altri gruppi senza concorrenza è più facile che lì l'unico motivo per cui salgono gli utili sia dovuto all'aumento delle tariffe? No, non l'unico, ma certamente le tariffe potrebbero essere risultate più basse se ci fosse stato un po' di concorrenza o qualche meccanismo di regolazione un pochino più incisivo di quello che è stato fatto. Allora, professor Prosperetti, lunedì ci divertiamo perché il tema delle privatizzazioni, tra l'altro le privatizzazioni senza liberalizzazioni, mi sembra di capire, perché se tu privatizzi ma lasci de facto il monopolio, no? Sì, privatizza un monopolio, non va bene. Allora, ci risentiamo lunedì, buon fine settimana, il GR e poi lo stato della nostra industria con il presidente della Brembo, nonché vicepresidente di Confindustria, Alberto Bombassei, che ha fatto anche investimenti come Brembo recentemente proprio in India, in Cina e in altri paesi. Ci sentiamo dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, dopo una giornata di borsa positiva, più 1,2 Francoforte, 1,9 Parigi, l'1,5 rialzo di Londra, l'1% quello di Milano. Quanto a finanza, ripetiamo, la notizia più importante è il no di Alierta, Cesare Alierta, numero uno di Telefonica, all'ipotesi di aumentare la quota in Telecom, cioè di arrivare alla fusione. Ha detto la situazione va bene così com'è. Di scuola non possiamo continuare ad occuparci, ma vi ricordo che domani se ne occuperà Piera Ceci con il programma Obbligo di Frequenza. Quindi si parlerà anche del rapporto della Fondazione Agnelli con cui abbiamo aperto questo programma. Adesso ci occupiamo dei dati sulla nostra, della nostra industria e quindi complessivamente della nostra economia. Allora, di ieri il dato del Centro Studi Confindustria per quello che riguarda la, quanti anni ci vorranno tornare al livello del 2007, 10 anni fino al 2017, oggi il Centro Studi Confindustria però ha detto attenzione, c'è comunque un consolidamento della ripresa, a febbraio siamo a un più 0,8%, rispetto ai minimi produttivi il recupero è stato del 6%, rispetto comunque ai massimi siamo ancora sotto di un 21%. Di prospettive economiche e dell'andamento delle nostre imprese parliamo allora, e anche della sua esperienza concreta come imprenditore, parliamo allora con Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria con la delega alle relazioni industriali. Buonasera. Buonasera a tutti. Lei è anche chiaramente presidente della Brembo, che significa un'azienda di eccellenza nel costruire, la dico in maniera un po' imprecisa, freni di altissima qualità per tutti, non solo per le auto ma anche per le auto, ma significa anche un gruppo che ha investito molto all'estero e ci interessa anche la sua esperienza all'estero. Però partiamo dal ruolo in Confindustria. Allora, ieri il direttore generale di Confindustria ha detto attenzione, qua usciremo completamente dalla crisi nel 2017, ha raffreddato molto entusiasmi. Certo che con questi tassi di crescita dello 0,7% la data è abbastanza immaginabile. Ma insomma, lei i segnali li vede o restano, come tutti amano dire adesso, molto fragili? Come tutti sanno, noi abbiamo un ufficio studi molto efficiente, oltre che credibile, e credo che le prospettive di un ritorno ai parametri del 2007 fossero state indicate intorno al 2015-2017. È chiaro che questo vuol dire una crescita molto molto lenta, ma per il momento gli elementi che abbiamo a nostra disposizione ci danno queste indicazioni, quindi è un po' un raffreddamento del facile ottimismo che in qualche settore sta circolando. Ma c'è una grossa differenza, perché credo che malgrado si arrivi agli stessi risultati da un punto di vista economico, ci sarà comunque una profonda trasformazione del mercato. E quindi il difficile, soprattutto per le imprese e per la tipologia delle imprese che il nostro paese ha, che sono soprattutto piccole o piccolissime o medie imprese, sono di capire come il mercato evolverà e quali saranno le tipologie di prodotti che fra 4, 5, 6 anni saranno richiesti a questo tipo di aziende di produzione. Allora, poi adesso arriveremo anche ai suoi consigli, diciamo così, in quanto imprenditore, però restiamo sul tema del suo ruolo in Confindustria, perché fermo essendo che appunto lei, anche lei mi sembra di abbastanza per scontato un ritorno ai livelli nel 2015-2017, sono d'accordo che poi un conto è tornare ai livelli, un conto è vedere come ci si torna. Vorrei un giudizio sul ruolo dei sindacati, un tema che non abbiamo toccato spesso in questi mesi, però ci è sembrato di vedere che in questa crisi si sia assistito meno rispetto a altre volte a una contrapposizione tra organizzazioni sindacali da un lato e organizzazioni datoriali, cioè Confindustria, ma anche altre organizzazioni dall'altro. Proprio la settimana scorsa Luigi Angeletti, segretario della UIL, ha riconosciuto la Confindustria anche una difesa dei posti di lavoro. Lei si sente, visto che ha la delega su questo, di fare la stessa cosa al contrario, cioè di riconoscere ai sindacati comunque una maturità nell'affrontare questa crisi, cioè non andare al tanto peggio, tanto meglio? Ma guardi, in questo momento il sindacato ha una rappresentanza talmente vasta che è difficile interpretare esattamente qual è la volontà, a parte le tre sigle che spesso non dicono le stesse cose. Se penso alla FIOM non condivido questo giudizio, se invece penso alla CISL e alla UIL e anche una buona parte della CGIL, in molte occasioni abbiamo convenuto che stiamo tutti cercando di correre per uno stesso risultato. Credo che non sia un segreto, che sia condiviso anche con il buon Epifani, la forte ricerca o alleanza che abbiamo fra di noi per cercare di salvare più alto numero di posti di lavoro. Quindi questa la vera sfida, al di là delle vecchie lotte anche culturali, sono proprio quelle di cercare di mantenere i posti di lavoro e quindi mantenere i consumi, mantenere un sistema industriale che si regge su un'economia che, pur difficile, ma che comunque fino ad oggi ha creato nuovi posti di lavoro, ha creato crescita, piccola ma una crescita, e quindi tutto sommato il nostro paese è annoverato fra i paesi più industriali, i paesi più moderni, e quindi, malgrado tutti i nostri problemi, soprattutto quelli che sono emersi in questi giorni, abbiamo anche tanti valori di cui dobbiamo andare fieri. Presidente Bombassei, questo è il ruolo, diciamo, delle due, come si chiamano in gergo, le parti sociali, cioè voi datori di lavoro e i sindacati come rappresentanti dei lavoratori. Per quello che riguarda il terzo soggetto, cioè la politica, il governo, allora lei a suo tempo, quando ci fu la polemica sugli incentivi, disse: attenzione, senza incentivi al settore auto, qui c'è una filiera che conta, non è solo la Fiat, ma tutta la filiera dell'indotto conta 1 milione di addetti. Mi sembra che a questo punto sia chiaro che gli incentivi all'auto non arriveranno, forse ne arriveranno di altro genere. È rimasto deluso? No, direi di no. Io allora lamentavo, e credo che anche in questo momento sarebbe condivisibile che ci fosse una politica condivisa a livello europeo, perché proprio per non creare dei disallineamenti fra un paese e un altro e un costruttore di auto e un altro, Germania, Francia, Italia, Spagna, Inghilterra dovrebbero concordare su fare o non fare degli aiuti. Poi sa, gli aiuti sono fatti anche in maniera molto, molto diversa, ogni paese ha cercato di interpretare in maniera la più conveniente per il proprio interesse. Abbiamo anche situazioni economiche e finanziarie diverse, chiaramente il nostro debito pubblico non ci aiuta ad essere molto generosi. Allora, facciamo una cosa, adesso ci sono informazioni per chi è in viaggio, poi torniamo ancora con un'ultima domanda sul suo ruolo in Confindustria di vicepresidente, poi invece vorrei sapere, come ricordavo, che messaggio, consiglio può dare agli imprenditori in ascolto, visto che continuiamo a ripetere che si uscirà da questa crisi con un'altra pelle, una metamorfosi, nulla sarà più come prima anche per le nostre imprese. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, Presidente Bombassei, un'ultima domanda sul suo ruolo in Confindustria e poi il suo ruolo di imprenditore. Allora, lei recentemente in un articolo su Sole 24 Ore ha detto: c'è bisogno di una politica industriale. Lei prima diceva, insomma, gli incentivi sono anche per gli altri settori sono poca cosa, 300 milioni di euro. Noi sappiamo che l'economia mondiale, il commercio mondiale è ritornato praticamente sui livelli pre-crisi, quello che si è ristretta della torta è la nostra fetta, non è la torta complessiva. Allora, visto che abbiamo avuto un meno 20% di produzione industriale, che cosa vuol dire avere una politica industriale? Cioè, che cosa ci metterebbe dentro lei in questa politica industriale? Ma io credo che uno studio partito ormai da un mese o due in Confindustria, chiamato Italia 2015, è proprio quello di capire o di immaginare esattamente quali saranno le richieste del mercato fra un po' di anni, e questo per prepararci a una trasformazione che sicuramente ci sarà. Allora, questa trasformazione dovrebbe poi trasformarsi anche in una politica industriale diversa, che possa essere tracciata dal sistema politico, e quindi per coerenza tutto si muova nelle direzioni che sono considerate strategiche. Quando dico questo, dico che la scuola dovrebbe essere orientata verso queste nuove linee, quindi su una parte più tecnica. La ricerca e sviluppo dovrebbe essere maggiormente finanziata in quei settori dove la politica industriale indica che saranno i settori del futuro. Ecco, quando dico una politica industriale è proprio questo maggiore coordinamento fra politica, economia, ci metto anche ovviamente le banche che hanno un peso estremamente importante, quindi anche l'aspetto finanziario di aiuto a questa trasformazione che le aziende dovranno fare, aiutare le aggregazioni, diventare un po' più grandi, perché in un mondo globalizzato le nostre dimensioni, che sono sempre state nel passato quasi un punto di un vantaggio rispetto agli altri paesi, in tanti casi stanno diventando invece dei punti di svantaggio. Quindi dobbiamo cercare di fare questa politica industriale che sia il più largamente condivisa dalle parti sociali e dalla politica e dalle banche. Ecco, non teme il rischio di un ritorno al dirigismo, non tanto allo statalismo, perché dubito che si possa tornare a statalizzare ciò che è stato privatizzato, ma al dirigismo? In Italia l'esperienza è stata un'esperienza positiva fino forse agli anni 60, alla fine degli anni 60, però poi l'intervento dello Stato è ancora un brutto ricordo in molti cittadini, e soprattutto noi veniamo da un boom economico dopo il primo boom degli anni 60, mi riferisco all'ultimo, quello degli anni 80, e quindi il nord-est, la dorsale adriatica, che si è tutto sviluppato grazie alla libertà dell'imprenditore di andare a scegliere che cosa produrre, non diciamo a dei piani di politica industriale. È così cambiato il mondo che quel modello lì rischi di non funzionare più, Presidente Bombassei? No, secondo me non è ancora così cambiato, ma sono convinto che cambierà. Quando dico una politica industriale, io dico solo che la politica deve dare delle linee, delle direzioni, ma guai a pensare o a ritornare alle aziende pubbliche, anzi, direi che forse è proprio uno dei punti con cui sia personalmente ma anche come Confindustria stiamo insistendo forte, e di ulteriormente liberalizzare, perché è vero che abbiamo in quegli anni liberalizzato i grandi gruppi e forse in qualche caso non sono stati tutti degli esempi così positivi, ma attenzione che stiamo invece pubblicizzando centinaia o migliaia di piccole e medie imprese, perché oggi spesso e volentieri i comuni, le province, le regioni hanno tantissime aziende che credo non aiutino questo grado di libertà a cui lei si riferiva. Quindi io su questo, quando dico linee politiche industriali, sempre in un mercato che deve essere regolato, ma un mercato assolutamente libero. Poi abbiamo visto che eccessi di libertà portano a qualche tipologia di scandalo che è di attualità in questi giorni. Ecco, non è quello l'esempio. Quindi libertà, ma rigorosamente controllata e guardata veramente a vista. Gli organi per fare questo ci sono, e quindi credo che nessuno metta in discussione il libero mercato, ma un libero mercato con delle rigorose regole che devono essere rispettate e soprattutto controllate, e come dico, gli enti per fare questo ci sono. Se mi permette, citiamo Gaber: libertà non è uno spazio libero, Presidente Bombassei. Sì, allora, veniamo appunto ai consigli da dare agli imprenditori suoi colleghi. Qui lei si spoglia della giacca, della casacca, da vicepresidente di Confindustria e torna ad essere il presidente della Brembo, perché appunto abbiamo sentito dire da vari ospiti nostri, occorre che si capisca che la crescita ormai sarà sempre più cinese, indiana e brasiliana, l'Europa ancora per alcuni anni, l'abbiamo appena detto, viaggerà con una ripresa fragile, la Germania sta importando dalla Cina alcuni prodotti che prima importava dall'Italia. Attenzione, occorrono reti lunghe, come si chiamano in gergo, e per avere le reti lunghe occorre avere massa e quindi dimensioni di impresa. Allora, voi questa cosa, se ho ben capito, come Brembo, che vuol dire 600 milioni di euro di fatturato e 3 milioni e 3 di utile netto, pur avendo subito anche voi la crisi l'anno scorso, perché avete avuto un meno 26% nel fatturato e meno 90% nell'utile, avete continuato a investire in aree che si chiamano Cina, da un lato, circa 50 milioni in 4 anni, se ho ben capito, avete acquisito una fonderia, India, Brasile e poi Polonia. Allora, visto che voi già lo state facendo, lei che cosa può dare come suggerimento ai suoi colleghi che però non hanno le dimensioni della Brembo, per cui non tutti hanno 600 milioni di fatturato in Italia, se no non saremmo qui a parlarne. Intanto quei 600 sono diventati 1060, l'ultimo bilancio approvato sono oltre i 1000, ma direi che anche qui è un qualche cosa, un mito da sfatare. Io personalmente non credo che si debba necessariamente avere grandi dimensioni per poter investire o avere delle attività nei paesi di grande crescita, quelli che si chiamano in gergo i paesi del BRIC. Chiaro che un'azienda piccola fa molta più fatica, o è difficile che riesca ad investire in Cina o in India o in Brasile, però credo che proprio per questo ci siano due strade che posso indicare come esperienza personale. Innanzitutto credo che si possano fare delle aggregazioni, oggi ci sono tanti mezzi per poter aggregare aziende dello stesso gruppo o quelle che sono le catene nostre normalmente, che sono settoriali e che possono magari spostarsi non singolarmente ma come gruppo e quindi investire insieme. La seconda è che spesso e volentieri dietro a un investimento di una media o grossa azienda ci sono dei fornitori che possono spostarsi insieme, quindi l'abbiamo fatto anche noi, parlo dei due stabilimenti per esempio che abbiamo in Polonia, alcuni dei nostri fornitori italiani hanno a loro volta investito in Polonia e sono diventati fornitori dell'azienda polacca. In India o in Cina non è stato esattamente così, però stiamo cercando di creare dei nuovi fornitori anche di piccole dimensioni. E anche questo è un mito un po' da sfatare nel pensare che i piccoli non possono fare questo, perché credo che sia una delle cose che ci viene più invidiato da queste grandi entità industriali cinesi, indiani o di altri paesi, è proprio questa capacità e questa bravura di fare manifattura di piccole dimensioni. Quindi secondo me questo know-how della piccola azienda ci viene oltre che invidiato, verrebbe accolta col tappeto rosso. Presidente Bombassei, nel ringraziarla, mi ha solleticato la curiosità giornalistica. Siccome i 600 milioni di fatturato erano i primi 9 mesi del 2009, lei dicendomi che avete fatto 1 miliardo, in realtà mi sta anticipando... Per il momento non abbiamo ancora provato il bilancio, quindi... Mi sta dicendo che mi sta anticipando i dati di bilancio. Non possiamo definirlo. L'ultimo bilancio approvato, il fatturato era 1060 milioni e eravamo poco sotto le 6.000 persone. Ecco, fatto importante, ma per dire quanto noi abbiamo creduto in tempi non sospetti, certo, che il mercato deve considerarsi veramente un mercato globale, da 2 anni a questa parte abbiamo più dipendenti e facciamo un fatturato più alto fuori dall'Italia. Questo non è un invito a delocalizzare. Io invito i miei colleghi a cercare di fare del manufatturiero in questi paesi che ho citato, o altri, perché poi dipende molto da settore a settore, ma per cercare di conquistare quei mercati. Altra cosa invece è fare dei prodotti per poi essere rimportati a più basso costo. Certo. Ecco, su questo è un'altra storia e quindi è già un qualche cosa di più difficile da farsi. Però i mercati in crescita ci sono. Se pensa che contro un'automobile ogni 2 abitanti che abbiamo, che la media europea, in India ci sono 2 automobili ogni 100 abitanti, lei pensi quanti milioni di automobili possiamo fare prima di saturare il mercato. Quindi c'è spazio per la nostra storica capacità e il nostro buon gusto, la nostra artigianalità di fare tanti prodotti che sono un po' la fortuna di quel Made in Italy che tutti ci riconoscono. Beh, in bocca al lupo allora, e speriamo che appunto queste indicazioni vengano anche raccolte e soprattutto messe in pratica. E in bocca al lupo a tutte le imprese italiane, quindi anche alla Brembo e ai suoi 6.000 dipendenti. Grazie vicepresidente di Confindustria con delega delle relazioni industriali Alberto Bombassei, nonché presidente della Brembo. Grazie a lei e grazie a tutti. E con questa intervista si conclude anche la puntata odierna e della settimana di Focus Economia. Non mi resta come ogni settimana che ringraziare Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'aiuto in redazione, Filippo Reggi per l'aiuto in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berregioni le auguro di un buon weekend a tutti voi in ascolto. Radio 24. La passione si sente.